Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati anche a questa nuova puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che riprende la seconda parte dell'intervento che l'estate scorsa il professor Faeti, notissima figura a Bologna, ma non solo, in quanto uno dei grandi massimi esperti decano del fumetto in Italia e della narrazione per ragazzi, beh, questo intervento di Faeti è quanto mai attuale, mischiando tra loro note critiche sul pioniere e note molto rammaricate sulla condizione politica che viviamo. Dopo uno stacco musicale sentiamo ancora dunque il professor Faeti. Un western rifatto, una dimensione storica rifatta, la resistenza non rifatta perché quella non gliel'aveva messa nessuno, quindi immessa, e una cosa che io trovo grandiosa, grandissima, questa, tantissima scienza. E io seguivo passo passo il prodotto scientifico del Pioniere, che negli altri giornali non c'era. Poi una cosa che viene dimenticata, non viene più ricordato, è Vinicio Berti, il protagonista visivo del Corriere. Era un pittore di vaglia, abituato a esporre in grandi gallerie, era un post-futurista di livello molto elegante, molto raffinato, ma era un militante e quindi si prestò per quasi nulla a lavorare intensamente per i Pioniere. Rodari, Vinicio Berti e lasciatemi ricordare anche qualche cosa di assolutamente incredibile, ed è Raul Verdini, il disegnatore del Pioniere, che nessun altro ha avuto e che era così elegante, pittore anche lui, più che disegnatore, nella stilizzazione, da far sì che le pagine sue sono stilisticamente inequivocabili. Nessun altro è fatto così. Riproponiamocela da una domanda. Un giornale che è così schierato, è così partitico, è così all'interno di una dimensione specificata benissimo, ha senso? Ha senso sul piano storico e chissà mai, anche in una dimensione di riattualizzazione? Ora, riguardando Rodari, riguardando soprattutto la terribile efficacia del viaggio della Freccia Azzurra, ritrovando il Darwin del Pioniere, rimmergendomi nella dimensione dei partigiani attraverso il Pioniere, mi sono detto: va bene che abbiamo perso tutto questo? Cioè, la nostra immersione nella modernità è così inevitabile che tutte queste cose non le abbiamo più, e le abbiamo avute e abbiamo lottato per queste e le abbiamo costruite, messe insieme. È bene che seguiamo un modo di far politica che non appartiene alla nostra tradizione, che non registra le barricate di Parma o i morti nell'Oltre Torrente o gli assassinati durante i 600 giorni a Firenze. per dire tutto ciò che le classi oppresse italiane hanno dato affinché si addivenisse a un poco più di democrazia, a un poco più di libertà. Questa smemoratezza non è che costi un prezzo orribile che stiamo già pagando? Carta, cuori, unghie, memorie bruciati in fretta come nella camera di scoppio di un motore su una forca o con le fucilate con la garrotta o con la sedia elettrica i vivi non ricordano lo sguardo i vivi non ricordano lo sguardo di Nicola Sacco morto in vano Bartolomeo Vanzetti morto in vano Giacomo Matteotti morto in vano Giuseppe Pinelli morto in vano e più neri di prima sono ritornati lo stesso cognome Mussolini usano un televisore come un cavallo di Troia entrano nel futuro dei nostri figli così come c'entrarono nel 920 per ricordarci che un giorno a Brescia sono morti in vano a Ustica sono morti in vano a Bologna sono morti in vano a Marzabotto sono morti in vano perché i vivi non ricordano si è ammutolito il mio strumento quando ha capito il popolo italiano di mare, cielo e terra deve saperlo che ci portano alla guerra guarda nei libri, devi ricordarlo ogni quanto tempo in Europa c'è un conflitto dove madri, padri, figli e figli sono morti da dimenticare perché i vivi non ricordano perché i vivi non ricordano gli occhi dei fratelli cieli Lauro Farioli morto in vano Marino Serri morto in vano Giovanni Albizzone morto in vano allora applaudo al ritorno fra noi della visibilità del pioniere perché è un atto contro la smemoratezza. Possiamo ritrovarlo, rivederlo, capire chi eravamo, chi erano, cosa hanno fatto, come hanno sofferto. Non è stata una vita lieta quella di Gianni. Credo che la morte così precoce abbia qualcosa a che fare con la tanta fatica che comunque in tanti modi ha fatto. Ma precorreva tutti. Rileggerli per questa occasione è stata un recupero di date sconcertante e da pedagogista tutto questo spazio nella pedagogia non c'è. Non c'è perché non c'è deve esserci. Questi conoscevano Anton Semyonovich Makarenko, diceva Bertin, il mio maestro. Vi chiamate Antonio tutti e due. Ma com'è il poema pedagogico? Non sarebbe meglio averlo e leggerlo? Ritrovarlo disponibile? E la cronaca della scuola 110 di Mosca? E bandiere sulle torri? E perché abbiamo dimenticato Makarenko? Perché abbiamo fatto sparire Frenet? Perché non ricordiamo che le nostre radici sono nell'Emilio di Rousseau? Anche queste. Rousseau non vuole che si ripeta, che si ridica memoria. Vuole l'esperiri latino, il placet experiri di Seneca. E all'interno di questo nero fumo la memoria può ben essere fiera, quindi ritroviamola, quindi andiamo a rivedere, perché quello che Togliatti voleva che si facesse attraverso il viaggio della Freccia Azzurra era il preludio alla lotta, perché la Freccia Azzurra è una cronaca della fame, è una cronaca della miseria, è una cronaca della sofferenza. E del resto, com'erano i bambini contemporanei della Freccia Azzurra? Così, ma non erano quelli che comparivano nella televisione. L'avrebbero voluto mettere sul Pioniere, ma non c'era già più. C'era allora una trasmissione, L'amico degli animali, dove c'era un bravissimo professore che piaceva molto ai bambini. Aveva accanto a sé un etiope di 2 metri che si chiamava Gezai Andalou, il quale era nero di fuori e molto più nero dentro. E così i fascisti lo esibivano accanto all'oratore e al grande Pino Romualdi, nero come il mio babbo, capò questa bellissima presentazione. Cavrati di Bologna, italiani di Bologna, abbiamo accanto a noi l'amico di tutti noi, l'amico degli animali, Gezai Andalou. Questo amico degli animali lo portai in tutte le sessioni. Consapevolezza, l'amico di tutti noi, l'amico degli animali. Rodari diceva, non c'è più il Pioniere, ti avrei detto fallo anche col disegno, disegnalo tu, riproponilo tu. Perché racconto, come diceva Frassica, questo nanetto? Perché sono riusciti i nostri avversari di classe in una esercizio di lotta straordinario. Sono riusciti a fare sembrare la politica invece che la nobile arte che appare nel Pioniere qualcosa di luridotto, qualcosa pieno di abbracci, di strane apparizioni, di messa in evidenza di ben pochi talenti e ben poca memoria. Walter Rossi.

There's gonna be a certain party at the station. It's happening late. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga, all aboard. Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga choo-choo.